Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio e buona domenica, una domenica di certo diversa da quella che raccontiamo di solito qui dopo le 16 su Radio 24. L'Italia si è fermata, si sono fermate tantissime cose e bisogna stare a casa per evitare il più possibile il contagio da coronavirus, ma le attività motorie e lo sport all'aperto sono consentiti, dunque anche andare in bici, si chiedono in molti. C'è stata un po' di confusione su questo tema. Andare in bici è consentito, ha chiarito una nota del governo sulle cosiddette consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria, purché sia osservata naturalmente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ma allora facciamo subito il punto con Gianluca Santilli, avvocato, presidente dell'osservatorio sulla bike economy, nonché ciclista. Ma diciamo che la ratio del decreto è molto chiara e dice si deve stare a casa salvo se non ci siano dei motivi molto precisi, che sono quelli lì indicati, cioè andare al lavoro, urgenze, motivi di salute e cose del genere. Quindi certamente non è un decreto fatto per dire se si può o non si può andare in bici, però c'è un inciso molto chiaro che consente di praticare sport e attività motoria all'aperto e quindi chiaramente da un punto di vista puramente interpretativo e rigoroso devo risponderti che sì, si può andare in bici, anche se con le cautele imposte dalla vicinanza, si parla di un metro. Diciamo che per la bici c'è un fattore che tenderebbe a limitarne o comunque a suggerirne il limite di utilizzo in più, che è quello della pericolosità. Se io cado in bici c'è il rischio che debba chiamare il 118, che debba essere ricoverato, e di questi tempi diciamo che non è esattamente questa la cosa più logica da fare. Quindi la cautela e anche un po' di buonsenso dovrebbero prevalere, però alla domanda precisa se io vado in bici e qualcuno mi può denunciare devo rispondere di no, salvo che io non mi sposti addirittura da un comune all'altro senza motivo. Io che sono un ciclista dico che probabilmente rispolvererò i rulli e mi farò un po' di attività in casa, semmai leggendomi un bel libro, forse prenderò un chilo, forse due, ma mi pare che sia del tutto secondario rispetto a quello che invece dobbiamo tutti quanti pensare di fare, cioè a arginare il più possibile questo contagio. Sappiamo tutti che il contagio, esempio della Cina, si argina se le misure sono molto restrittive per quanto riguarda la frequentazione e la vicinanza tra persone. Quindi poi se proprio non si resiste, a Roma abbiamo delle giornate meravigliose, c'è una ciclabile, la mattina presto non c'è nessuna, uno vuol farla avanti e indietro, beh insomma nessuno credo gli spari addosso, però forse un po' di senso di responsabilità e un po' di voglia di dare l'esempio a tutti quanti forse dovrebbe prevalere. Insomma, andare in bici è consentito, come scritto anche sulla nota che potete trovare sul sito del governo, ma vale quanto abbiamo appena detto, cioè il buonsenso e la prudenza devono prevalere. Questo è lo spirito di tutti i provvedimenti del governo di questi giorni, con l'invito a stare il più possibile a casa. Quindi no ad allenamenti che comportano più chilometri, che rischiano di esporre noi stessi e gli altri ai pericoli, sia passeggiate sotto casa, magari su una ciclabile protetta, come ci racconta una cara amica di questa trasmissione. Buon pomeriggio, Ludovica. Buon pomeriggio a te, Alessandra, e a tutti. Ludovica Casellati, direttrice di viaggiinbici.com. Con te, Ludovica, abbiamo raccontato tante volte in questa trasmissione di viaggi, di itinerari, di vacanze in bicicletta, di luoghi, di posti meravigliosi da scoprire e da esplorare sulle due ruote. Tutto ovviamente ora si è fermato. Tu vivi a Padova, tra l'altro, dove tutto si è fermato ancor prima che nel resto d'Italia. State sperimentando da più tempo le restrizioni alla mobilità, ma fare una passeggiata appunto magari in bicicletta in modo tranquillo è una cosa che si può fare, che è possibile, che tu stai facendo. Allora bisogna distinguere, perché c'è una grande confusione. Allora è vero che fare attività motoria nel senso di allenamento in bicicletta può essere pericoloso, poi dipende da come uno lo fa. perché chi è un professionista si allena, eccetera, il rischio è quello che uno, se si fa male, poi deve andare in ospedale e questo è un problema. Quindi va evitato l'eccesso. In questo momento, secondo me, dobbiamo usare la testa e il buon senso. Dobbiamo, è vero, restare a casa, ma ad esempio io ho programmato che un'ora al giorno porto mio figlio fuori all'aria aperta. Siamo io e lui, passeggiamo a piedi o in bicicletta. Devo dire, io sono fortunata perché vivo in una città in cui girare in bicicletta lo si può fare in sicurezza, perché è una città dotata di ciclabili. Ho appena visto in questo momento un ex primario di pediatria in bicicletta con suo nipote. Quindi questo testimonia il fatto che anche un primario di pediatria portava fuori il nipote in bici. Non si può stare a pensare di stare tappati in casa. Secondo me, poi lo spiegheranno i medici, io non sono un medico, questo può poi generare depressione se uno sta tutto il giorno, tutti i giorni a casa. Bisogna usare la testa, secondo me uscire all'aria aperta e farlo in sicurezza. Il decreto ha previsto che non si debba uscire, ma per andare in luoghi dove ci sono altre persone, non per camminare nella propria città e magari lungo un argine o fare una passeggiata per conto proprio che mette in moto il fisico. Questo io dico, nessuno può vietarci di fare movimento, questo non è pericoloso a meno che, come dicevamo, non ci mettiamo a rischio, non so, decidiamo di andare, non so, sui colli a fare downhill. Ecco, questo lo trovo poco prudente in un periodo come questo. Ecco, possiamo dire dunque di evitare allenamenti, stiamo parlando di non di bici sportiva, ma di passeggiate. No, noi stiamo parlando di passeggiate, esattamente, di passeggiate. Passeggiate all'aria aperta, in luoghi non affollati ovviamente, ma oggi almeno da noi è da un bel po' che non ci sono luoghi affollati e gli argini delle città sono davvero, almeno nel mio caso, un luogo ideale dove poter passeggiare in tutta sicurezza e dove poter fare anche nelle ciclabili delle passeggiate anche in bicicletta, perché no? Anche perché con la bici la distanza è comunque d'obbligo. La bicicletta tutela da questo. La bicicletta, dal mio punto di vista, ovviamente ci deve andare chi sa andare, ecco. Direi che non è il momento ideale per imparare. Esatto, non è il momento ideale per imparare ad andare in bicicletta, ma chi ci sa andare può andare benissimo perché si tengono le distanze, è proprio perfetto. Io con mio figlio ho mio figlio in bicicletta che è a distanza anche da qualsiasi altra persona, non solo è un po' più elevato, perché la bici, no, ti dà questa posizione elevata, ma ti costringe necessariamente a tenere una distanza anche dagli altri. Quindi perché no? Con calma, con testa, si può fare tutto. Bene, Ludovica, grazie. Torniamo a sentirci presto anche per parlare di viaggi. Ma guarda, questo è il momento, lo dicevi tu, io dirigo un giornale che si chiama viaggiinbici.com che ci dà tante suggestioni di viaggio. Questo è un momento, visto che stiamo a casa, per leggere, per consultare, per pianificare e sognare i nostri giri, i giri che potremo fare in futuro, perché oggi non possiamo, appunto il DPCM non ci consente di viaggiare, di metterci in movimento, di andare in giro, e quindi è il momento invece per pensare, pianificare, sognare le prossime nostre passeggiate in giro per l'Italia in bicicletta. Grazie Ludovica, buon pomeriggio, a presto. Buon pomeriggio a voi, ciao. Bene, allora, in attesa di poter nuovamente tornare a parlare di viaggi, di vacanze in bicicletta e di itinerari sulle due ruote, buone passeggiate piccole, dosate e tranquille, buone pedalate sui rulli per chi invece si continua ad allenare in casa, e sempre buona bici a tutti. Ciao.